النحل، le api. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Giunge l'ordine di Allah. Non cercate di affrettarlo. Gloria a Lui. Egli è ben più alto di ciò che gli associano. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Per ordine suo scendono gli angeli con la rivelazione su chi egli vuole tra i suoi servi. Ammonite le genti che non c'è altro Dio all'infuori di me. Temetemi dunque. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Egli ha creato i cieli e la terra secondo verità. Egli è ben più alto di ciò che gli associano. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Creò l'uomo da una goccia di sperma ed eccolo manifesto oppositore. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Creò le greggi da cui traete calore e altri vantaggi e di cui vi cibate. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. E com'è bello per voi quando le riconducete all'ovile e quando uscite al pascolo. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Trasportano i vostri pesi verso contrade che non potreste raggiungere se non con grande fatica. In verità, il vostro Signore è dolce, misericordioso. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. E vi ha dato i cavalli, i muli e gli asini, perché li montiate e per ornamento. E crea cose che voi non conoscete. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Guidarvi sulla retta via è prerogativa di Allah, poiché altre vie se ne allontanano. Se volesse, vi guiderebbe tutti. Huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun. Egli è colui che ha fatto scendere l'acqua dal cielo, bevanda per voi ed erba per i pascoli. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Per mezzo suo ha fatto germinare i cereali e l'olivo, le palme e le vigne e ogni altro frutto. In verità, in ciò vi è un segno per gente che sa riflettere. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Vi ha messo a disposizione la notte e il giorno, il sole e la luna. Le stelle sono sottomesse al suo ordine. In verità in ciò vi sono segni per gente che comprende. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. E ha creato per voi sulla terra tutte le cose di diversi colori. In verità in ciò vi è un segno per gente che ricorda. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Egli è colui che vi ha messo a disposizione il mare affinché possiate mangiare pesce freschissimo e trarne gioielli con i quali vi adornate. Vedi la nave scivolarvi sopra sciabordando per condurvi alla ricerca della sua grazia, affinché gli siate riconoscenti. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ha infisso sulla terra le montagne, affinché non oscilli sotto di voi, e ha disposto fiumi e sentieri affinché non vi smariate. E ha stabilito punti di riferimento, le stelle che vi fanno da guida. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Colui che crea è forse uguale a chi non crea affatto? Non riflettete dunque? وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Se voleste contare i favori di Allah, non potreste enumerarli. In verità Allah è perdonatore, misericordioso. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Allah conosce quello che palesate e quello che celate. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Coloro che si invocano all'infuori di Allah nulla creano, che anzi loro stessi sono creati. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Essi sono morti e non vivi e non sanno affatto quando saranno resuscitati. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Il vostro Allah è un Dio unico. Coloro che non credono nell'altra vita hanno la miscredenza nel cuore e sono tronfi d'orgoglio. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Senza dubbio Allah conosce quello che celano e quello che palesano. In verità egli non ama quelli che sono tronfi d'orgoglio. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quando è chiesto loro, cos'è quel che ha fatto scendere il vostro Signore? Rispondono, favole degli antichi. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Nel giorno della resurrezione porteranno tutto il loro carico e pure una parte di quello di coloro che per ignoranza sviarono. Quanto è orribile il loro fardello! قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Coloro che li precedettero già avevano tramato, ma Allah ha scalzato le basi stesse delle loro costruzioni, il tetto gli rovinò addosso e il castigo gli venne da dove non lo aspettavano. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Nel giorno della resurrezione li coprirà di abominio e dirà loro: dove sono i miei associati a favore dei quali eravate in polemica? E quelli che avranno ricevuto la scienza diranno: oggi ci saranno vergogna e sventura sui miscredenti. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Quelli che gli angeli della morte coglieranno ancora ingiusti verso se stessi. Allora faranno atto di sottomissione dicendo: Non commettemmo male alcuno, invece Allah conosce perfettamente quello che facevate. Fadkhulu abwab jahannam khalidina fiha. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Oltrepassate le porte dell'inferno per rimanervi in perpetuo. Com'è atroce la dimora dei superbi. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Verrà chiesto a quelli che temevano Allah: Cos'è quel che ha fatto scendere il vostro Signore? Risponderanno: il bene più grande. Coloro che fanno il bene avranno il bene in questa vita, ma la dimora dell'altra vita è certo migliore. Quanto deliziosa sarà la dimora dei timorati. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahti الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Entreranno nei giardini dell'Eden dove scorrono i ruscelli e avranno quello che desidereranno. Così Allah compensa coloro che lo temono. Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Coloro che gli angeli coglieranno nella purezza dicendo loro: pace su di voi, entrate nel paradiso, compenso per quel che avete fatto. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Cosa aspettano quegli altri se non che vengano gli angeli o giunga il decreto di Allah? Già agirono così coloro che li precedettero. Non è Allah che li ha danneggiati, sono loro che hanno fatto torto a se stessi. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Saranno colpiti dal male che avranno commesso, e ciò di cui si burlavano li avvolgerà. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Dicono gli idolatri: se Allah avesse voluto, non avremmo adorato nulla oltre a Lui, né noi né i nostri avi, e non avremmo interdetto se non ciò che Egli ci ha proibito. Così agivano quelli che vissero prima di loro. Ma che altro compito hanno i messaggeri se non la chiara trasmissione del messaggio? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ad ogni comunità inviamo un profeta che dicesse: adorate Allah e fuggite gli idoli. Allah guidò alcuni di essi e altri si persero sviati. Percorrete la terra e vedrete cosa accadde a coloro che accusarono di menzogne i messaggeri. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Anche se brami dirigerli, sappi che Allah non guida gli sviati e non avranno nessuno che li soccorrerà. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Giurano su Allah con il più solenne dei giuramenti: Allah non risusciterà il morto. E invece sì, vera promessa che egli si assume. Ma la maggior parte degli uomini nulla conosce. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Promessa che realizzerà per mostrar loro con chiarezza ciò a proposito di cui divergevano, e affinché i miscredenti sappiano di essere stati bugiardi. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Quando vogliamo una cosa ci basta dire sì ed essa è. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Quanto a coloro che sono emigrati per la causa di Allah, dopo aver subito la persecuzione, daremo loro una bella dimora in questa vita. Ma il compenso dell'altra vita è ben più grande. se solo lo sapessero. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. Essi sono coloro che hanno sopportato con pazienza e confidato nel loro Signore. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Prima di te non inviammo che uomini da noi ispirati. Chiedete alla gente della scrittura se non lo sapete. Bil bayyinati waz-zubur وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Li inviammo con prove e con salmi, e su di te abbiamo fatto scendere il monito, affinché tu spieghi agli uomini ciò che è stato loro rivelato e affinché possano riflettervi. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Coloro che tramavano crimini sono forse al sicuro dal fatto che Allah li faccia sprofondare nella terra o che giunga loro il castigo da dove non se lo aspettano? أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. O che li colpisca nel pieno dell'attività senza che possano respingerlo? أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. O che li colpisca al culmine della disperazione? In verità il vostro Signore è dolce, misericordioso. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Non hanno visto che le ombre di tutto ciò che Allah ha creato si allungano a destra e a sinistra, prosternandosi umilmente davanti a Lui? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Si prosterna davanti ad Allah tutto ciò che c'è nei cieli, tutti gli animali della terra e gli angeli che non sono affatto orgogliosi. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Temono il loro Signore che è al di sopra di loro e fanno ciò che è loro ordinato. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Allah dice: non adottate due divinità. In verità egli è il Dio unico. Temetemi dunque. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. A lui appartiene tutto ciò che c'è nei cieli e sulla terra. A lui spetta il culto sempiterno. Temerete altri che Allah? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Tutto il bene di cui godete appartiene ad Allah. Poi, quando vi tocca la sventura, a lui rivolgete i vostri lamenti angosciati. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Quando poi l'allontana da voi, ecco che alcuni associano divinità al loro Signore. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Disconoscendo quello che abbiamo dato loro, godete pure per un periodo, che ben presto saprete. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. Attribuiscono parte di quello che abbiamo dato loro a esseri che neanche conoscono. Per Allah, certamente vi sarà chiesto conto di ciò che avrete inventato. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Attribuiscono figlie ad Allah, gloria a lui, e a loro stessi quello che più desiderano. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Quando si annuncia ad uno di loro la nascita di una figlia, il suo volto si adombra e soffoca in sé la sua ira. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Sfugge alla gente per via della disgrazia che gli è stata annunciata. Deve tenerla nonostante la vergogna o seppellirla nella polvere. Quanto è orribile il loro modo di giudicare. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. A quelli che non credono nell'altra vita si applica la metafora stessa del male, mentre la metafora più elevata spetta ad Allah, egli è l'eccelso, il saggio. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Se Allah volesse punire tutti gli uomini delle loro colpe, non lascerebbe alcun essere vivente sulla terra. Li rimanda fino al termine stabilito. Quando poi giunge il termine, non potranno ritardarlo di un'ora. Né anticiparlo. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Attribuiscono ad Allah ciò che essi detestano, e le loro lingue proferiscono menzogna quando dicono che avranno il meglio. Quello che indubbiamente avranno sarà il fuoco in cui saranno spinti. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumush shaytanu a'malahum fahuwa waliyyuhumul yawma wa lahum 'adhabun alim. Per Allah, certamente abbiamo inviato messaggeri alle comunità che ti hanno preceduto, ma Satana abbellì ai loro occhi le azioni loro. Bene, oggi egli è il loro patrono, ma avranno doloroso castigo. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Abbiamo fatto scendere il libro su di te affinché tu renda esplicito quello su cui divergono, affinché esso sia guida e misericordia per coloro che credono. Wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Allah fa scendere l'acqua dal cielo e suo tramite rivivifica la terra che era già morta. Questo è certamente un segno per gente che ascolta. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. E in vero dai vostri greggi trarrete un insegnamento. Vi dissetiamo con quello che è nei loro visceri, tra chimo e sangue, un latte puro, delizioso per chi lo beve. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Pure dai frutti dei palmeti e delle vigne ricavate bevande inebriante e cibo eccellente. Ecco un segno per coloro che capiscono. E il tuo Signore ispirò alle api: dimorate nelle montagne, negli alberi e negli edifici degli uomini. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Cibatevi di tutti i frutti e vivete nei sentieri che vi ha tracciato il vostro Signore. Scaturisce dai loro ventri un liquido dei diversi colori, in cui c'è guarigione per gli uomini. Ecco un segno per gente che riflette. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Allah vi ha creato, poi vi farà morire. Qualcuno di voi sarà condotto fino all'età decrepita, tale che nulla sappia dopo aver saputo. Allah è sapiente, potente. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah ha favorito alcuni di voi al di sopra di altri nelle risorse materiali. Coloro che sono stati favoriti, le divideranno forse con i loro servi, sì da renderli a loro uguali? Negherebbero a tal punto la benevolenza di Allah? وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Allah vi ha dato spose della vostra specie, e da loro vi ha dato figli e nipoti, e vi ha concesso le cose migliori. Crederanno al falso e disconosceranno la benevolenza di Allah? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Adorano all'infuori di Allah ciò che non procura loro alcun cibo, né dalla terra né dal cielo, e che non ha alcun potere? فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Non paragonate nulla ad Allah. Allah sa e voi non sapete. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah vi propone la metafora di un servo, uno schiavo senza alcun potere, e di un uomo al quale abbiamo dato risorse notevoli e delle quali in pubblico e in privato fa elemosine. Sono forse uguali? Lode ad Allah, ma la maggior parte di loro non lo sa. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. E Allah vi propone la metafora di due uomini. Uno di loro è muto, buono a nulla, a carico del suo padrone, e ovunque lo si invii non combina niente di buono. È forse uguale a chi comanda con giustizia e cammina sulla retta via? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Appartiene ad Allah l'ignoto dei cieli e della terra. L'ordine relativo all'ora non sarà altro che un batter d'occhio, o meno ancora. In verità Allah è onnipotente. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. Allah vi fa uscire dai ventri delle vostre madri sprovvisti di ogni scienza, e vi dà udito, occhi e intelletto. Sarete riconoscenti? Alam yaraw ila at-tayri musakharatin fi jawi as-samai ma yumsikunna illa Allah. Inna fi dhalika la'ayatin li qaumin yu'minun. Non hanno visto gli uccelli sottomessi ad Allah nello spazio del cielo dove solo Allah li sostiene? In ciò vi sono segni per coloro che credono. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah vi ha concesso riparo nelle vostre case, come vi ha concesso dimore fatte con le pelli dei greggi. Tende che vi sono leggere quando vi spostate e quando posate il campo. Con la loro lana, il loro crine e il loro pelo, fabbricate suppellettili e oggetti di cui vi servite per un certo tempo. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Con quel che ha creato, Allah vi ha dato l'ombra e ha fatto per voi rifugi nelle montagne. Vi ha concesso vesti che vi proteggono dal calore e altre che vi proteggono dalla vostra stessa violenza. Ha in tal modo completato la sua benevolenza su di voi, affinché siate sottomessi. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Se poi volteranno le spalle, sappi che a te incombe solo l'obbligo della comunicazione esplicita. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Conoscono la benevolenza di Allah e poi la rinnegano. La maggior parte di loro sono miscredenti. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Il giorno in cui susciteremo un testimone da ogni comunità, ai miscredenti non sarà data la parola e non avranno nessuna scusa. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. E quando gli ingiusti vedranno il castigo, esso non verrà in nulla alleviato e non avranno dilazione. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Quando coloro che erano associatori vedranno quello che associavano ad Allah, diranno: O Signor nostro, ecco le divinità che invocavamo all'infuori di te. E questi replicheranno: In verità siete bugiardi. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. In quel giorno offriranno ad Allah la loro sottomissione e le loro invenzioni li abbandoneranno. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Quanto ai miscredenti che distolgono le genti dal sentiero di Allah, aggiungeremo loro castigo su castigo per la corruzione che hanno sparso. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. E il giorno in cui susciteremo in ogni comunità un testimone scelto tra loro e a carico loro, ti chiameremo, o Muhammad, come testimone nei loro confronti. Abbiamo fatto scendere su di te il libro che spiegasse ogni cosa, guida e misericordia e lieta novella per i musulmani. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. In verità Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e la generosità nei confronti dei parenti. Ha proibito la dissolutezza, ciò che è riprovevole e la ribellione. Egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Obbedite al patto di Allah dopo che l'avete accettato e non mancate ai giuramenti solenni che avete prestato, chiamando Allah garante contro voi stessi. In verità Allah conosce il vostro agire. ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Non fate come colei che disfaceva il suo filato dopo averlo torto a fatica, facendo dei vostri giuramenti mezzi di reciproco inganno a seconda della prevalenza di un gruppo o di un altro. Così Allah vi mette alla prova. E nel giorno della resurrezione vi mostrerà ciò su cui eravate in polemica. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Invece Egli travia chi vuole e guida chi vuole. Certamente sarete interrogati sul vostro agire. وَلَا تَتَّخِذُوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Non fate dei vostri giuramenti mezzi di reciproco inganno, che altrimenti scivolerebbero i vostri piedi dopo che erano stati saldi, e proverete la sventura per aver allontanato le genti dal sentiero di Allah. Subirete un castigo terribile. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Non svendete al prezzo il patto con Allah. Ciò che è presso Allah è meglio per voi se lo sapeste. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quello che è presso di voi si esaurisce, mentre ciò che è presso Allah rimane. Compenseremo coloro che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. فَإِذَا قَرَأْ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Quando leggi il Corano, cerca rifugio in Allah contro Satana il lapidato. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رب. Egli non ha alcun potere su quelli che credono e confidano nel loro Signore. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Ma ha potere solo su chi lo prende per patrono, su quelli che per causa sua diventano associatori. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. بل أكثرهم لا يعلمون. Quando sostituiamo un versetto con un altro, e Allah ben conosce quello che fa scendere, dicono: non sei che un impostore. La maggior parte di loro nulla conosce. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Di, lo ha fatto scendere con lo spirito puro, con la verità inviata dal tuo Signore per rafforzare coloro che credono, come guida e buona novella per i musulmani. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Sappiamo bene che essi dicono: c'è un qualche uomo che lo istruisce. Ma colui a cui pensano parla una lingua straniera, mentre questa è lingua araba pura. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. In verità Allah non guida coloro che non credono ai suoi segni. Avranno doloroso castigo. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. I soli a inventare menzogne sono quelli che non credono ai segni di Allah. Essi sono i bugiardi. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Quanto a chi rinnega Allah dopo aver creduto, eccetto colui che ne sia costretto, mantenendo serenamente la fede in cuore, e a chi si lascia entrare in petto la miscredenza, su di loro è la collera di Allah e avranno un castigo terribile. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ciò perché preferirono questa vita all'altra. In verità, Allah non guida i miscredenti. Ulaika alladhina tab'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ecco coloro cui Allah ha sigillato i cuori, l'udito e la vista. Ecco gli incoscienti. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Senza alcun dubbio, nell'altra vita saranno i perdenti. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ma in verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di coloro che sono emigrati dopo aver subito la persecuzione e quindi hanno lottato e hanno resistito per la sua causa. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Il giorno in cui ogni anima verrà a difendere se stessa, in cui ogni anima sarà compensata per quello che avrà operato, nessuno subirà ingiustizia. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah vi propone la metafora di una città. Viveva in pace e sicurezza. Da ogni parte le venivano approvvigionamenti. Poi rinnegò i favori di Allah. E Allah le fece provare la fame e la paura, punizione per quello che avevano fatto. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Giunse loro un messaggero della loro gente, ma lo trattarono da bugiardo. Li colse dunque il castigo, poiché erano ingiusti. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Mangiate le cose buone e lecite che Allah vi ha concesso, e rendetegli grazie della sua benevolenza, se è lui che adorate. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Allah vi ha proibito la carogna, il sangue e la carne di maiale, e l'animale sul quale sia stato invocato altro nome che quello di Allah. Quanto a colui che vi sia costretto senza essere né ribelle né trasgressore, in verità Allah è perdonatore, misericordioso. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo questo è lecito, questo è illecito, e mentendo contro Allah. Coloro che inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Avranno godimento effimero e poi un castigo doloroso. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Proibimmo a quelli che seguirono il giudaismo ciò di cui già ti dicemmo. Non siamo stati noi ad essere ingiusti verso di loro, essi stessi lo furono. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. In verità il tuo Signore è perdonatore e misericordioso nei confronti di quelli che commisero il male per ignoranza e poi si pentirono e si corressero. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. In verità, Abramo fu un modello, obbediente ad Allah e sincero. Egli non era affatto un politeista. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Era riconoscente ad Allah per i suoi favori. Allah lo scelse, lo guidò sulla retta via. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Gli abbiamo dato il bene in questa vita e nell'altra sarà certamente tra i giusti. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Quindi ti rivelammo, segui con sincerità la religione di Abramo. Egli non era affatto un associatore. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. In verità il sabato fu istituito solo per coloro che divergevano in proposito. Nel giorno della resurrezione, il tuo Signore giudicherà tra di loro in merito alle loro divergenze. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola e discuti con loro nella maniera migliore. In verità il tuo Signore conosce meglio di ogni altro chi si allontana dal suo sentiero e conosce meglio di ogni altro coloro che sono ben guidati. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Se punite, fatelo nella misura del torto subito. Se sopporterete con pazienza, ciò sarà ancora meglio per coloro che sono stati pazienti. Wasbir wa ma sabruka illa billah. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Sii paziente. La tua pazienza non viene da altri se non da Allah. Non ti affliggere per loro e non farti angosciare dalle loro trame. Inna Allah ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinun. In verità, Allah è con coloro che lo temono e con coloro che fanno il bene.